L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini, prima puntata del 2015. Siamo finalmente arrivati all'anno dell'Expo, come ormai si ripete continuamente. L'Expo di Milano sarà dedicato ai temi della nutrizione, della produzione del cibo, del consumo di cibo. E questo comprende ovviamente un po' tutto, comprende il clima, comprende l'agricoltura, la cucina, la sostenibilità, la nostra salute. Con molti di questi temi ci siamo già confrontati in questa trasmissione nel corso del 2014, con molti altri ci confronteremo in futuro. Oggi vogliamo dare un taglio un po' particolare, almeno alla prima parte della trasmissione, perché vogliamo parlare sia di food sia di economy, cioè vogliamo parlare di cibo e di economia, e lo facciamo con Antonio Belloni. Benvenuto Antonio. Buongiorno. Antonio Belloni è l'autore di un volume che si intitola per l'appunto Food Economy, l'Italia e le strade infinite del cibo tra società e consumi, edizioni Marsilio. Io direi, Antonio, cominciamo con lo spiegare qual è la questione, cioè vorrei sapere da te che cosa avevi in mente nel momento in cui scrivevi di Food Economy, e così chiariamo, diciamo, il concetto di base dal quale si parte per questa tua analisi. Allora, la food economy, per come l'ho cercata di tracciare io, è una congiunzione astrale molto particolare. Si avvera, diciamo, proprio in questo periodo, data dai cambiamenti tecnologici, perché dal punto di vista quantitativo, diciamo, i consumi alimentari nei paesi diciamo evoluti come il nostro, come quelli europei, è cambiata. I consumi drasticamente stanno calando, però i consumi cambiano anche dal punto di vista qualitativo, nel senso che consumiamo meglio, siamo molto più attenti alle informazioni. Sta sparendo la voce, scusami Antonio, sta gracchiando. Senti, tanto strano, perché io sono, ecco, immobile. Adesso si sente, non lo so, sarà qualche interferenza. Allora, dicevi, i consumi stanno calando, ma... I consumi alimentari dei paesi occidentali stanno calando, ma stanno cambiando drasticamente dal punto di vista qualitativo. Non solo per la crisi, perché il consumatore ricerca salute, conoscenza, informazione e comunicazione attraverso il cibo, e questo riguarda, diciamo, i paesi che sono oggi investiti dalla crisi. Dal punto di vista quantitativo invece abbiamo delle fette enormi di mercati esteri, e mi riferisco in particolare ai paesi emergenti, che stanno esplodendo in termini di consumi alimentari quantitativamente, quindi escono dalla crisi, dalla povertà, e consumano di più. In questo grande frullatore c'è la tecnologia, che consente una produzione più veloce e più efficiente dei prodotti alimentari, ma consente anche di veicolare il cibo come diciamo contenuto informativo. E questo è l'ingrediente nuovo che c'è rispetto a una quindicina, una ventina di anni fa. Ecco, questi tre fenomeni insieme, il calo dei consumi, i consumi che cambiano e le tecnologie in mezzo, qualificano la nostra food economy di oggi e lo rendono un fantastico spazio in cui l'Italia può trovare una dimensione molto interessante, soprattutto anche grazie all'evento di Expo, diciamo. Adesso poi mi dici anche un po' perché l'Italia, ma anche altri o solo l'Italia? L'Italia soprattutto. Perché ha l'occasione di Expo, ma anche magari perché ha qualche caratteristica in particolare, diciamo, che avendo tu elencato questi tre... Certamente, è chiaro che di fronte a questi processi l'Italia si trova in una posizione di vantaggio rispetto agli altri paesi, forse anche maggiore rispetto al nostro primo concorrente, che è la Francia, che ha delle produzioni e dei prodotti agroalimentari molto simili ai nostri in termini, diciamo, qualitativi e di immagine nel mondo, e quindi sto parlando sostanzialmente di export e di capacità di penetrare i mercati esteri. Quindi l'Expo può essere un volano fondamentale per parlare al mondo e dire cosa di meglio sappiamo fare, in questo caso il cibo. Certo, perché poi adesso proprio a questo proposito tu nominavi la Francia. Io ricordo di essere stata a un forum Italia-Cina in cui i cinesi rimproveravano per l'appunto agli italiani di avere un'altissima qualità ma una scarsissima capacità di comunicarsi. Quindi l'Expo di Milano può essere l'occasione per comunicarsi e farsi conoscere come Italia, non come distretti di produzione del parmigiano in contrasto con quelli che da un'altra parte fanno un'altra cosa meravigliosa, prosciutto di Parma, ma diversa, vanno avanti separatamente. Certo, no? Certo, perché la Cina è un grande mercato assorbente di prodotti alimentari, però per esempio il vino in Cina è francese, non è vino. Prima di essere vino è francese. Questo è il risultato di 15-20 anni di un'ottima comunicazione integrata e molto centralizzata da parte dei governi e delle strutture del cosiddetto sistema paese francese. Noi invece aggrediamo questi mercati in maniera, come al solito, molto sparpagliata e disordinata, diciamo. E veniamo a un po' anche al libro, adesso che abbiamo fatto il cappottino agli italiani, tanto lo siamo fatti da soli, quindi niente di male, non è che ce lo stanno facendo gli altri. E, veniamo al libro. Tu sviluppi molto nella prima parte proprio quello che noi stiamo vivendo con tutti i nostri Masterchef, con tutta l'attenzione che abbiamo al cibo, alla qualità del cibo, a quello che appunto quante calorie, ma che tipo di calorie ingeriamo. Ovviamente questo è in contrasto con, come ricordavi tu, con i paesi in cui in realtà adesso si pensa semplicemente a mangiare perché certo. Si è vissuto un periodo di povertà. Però noi viviamo un momento molto particolare in cui c'è molta sovrastruttura, diciamo, sul cibo. Esattamente, c'è molta comunicazione. Mi sono arrogato il diritto di dire che si mangia più informazione di quanto si mangi cibo oggi nei paesi occidentali, in particolare nel nostro. Siamo un paese con 25.000 blog che parlano di cibo, ne nasce uno al giorno, 70 programmi televisivi di cibo, si può fare il giro a 360 gradi in una giornata passando da un canale all'altro senza scostarsi dall'argomento e rimanendo sempre a parlare di quello. È chiaro che la domanda è: sarà una bolla questa incredibile, questo grande discorso pubblico sul cibo? Questo può darsi sicuramente. Sicuramente ha avuto l'effetto di far aprire molti ristoranti, molti locali, che però non sempre poi hanno realmente la possibilità di sopravvivere a questo momento di grande attenzione sul cibo. Esattamente, infatti proprio in questi termini parliamo di sostenibilità, che non è sempre e solo diciamo ambientale, ma è anche proprio una sostenibilità del business, diciamo di mercato, perché un paese con 100.000 ristoranti, 20 miliardi di euro, 500.000 addetti legati alla ristorazione, sicuramente riesce a dare da mangiare a tutti, ma non tutti sono più in grado, data la crisi, appunto far crescere osterie, trattorie, bar con tavole calde, locali di cucina, fast food, ristoranti, insomma. Difatti stiamo fotografando proprio in questo periodo un po' di crisi nella cosiddetta Chef SPA, cioè questo grande sistema della ristorazione che ci rende anche famosi all'estero. I soggetti, gli operatori di questo settore sono forse troppi. Ecco, perché non è solo la crisi, temo, che porterà alla chiusura di alcuni locali, ma magari sono anche troppi e alcuni anche un po' incompetenti rispetto al lavoro che è più un'idea, un sogno, come dire: io vado sull'isola tropicale, ecco, per cambio vita, adesso c'è cambio vita per un ristorante, ma bisogna averne anche le capacità e le qualità. Diciamo che in questo periodo è un po' la ristorazione è un po' il grande impero del dilettantismo, perché noi italiani soprattutto, che abbiamo in mente di essere un po' il cuoco diffuso, no? Tutti ci sentiamo in grado di cucinare, poi quando facciamo questa exit strategy di vita e vogliamo aprire un ristorante e mollare tutto, ci scontriamo con costi fissi del personale, bollette, tasse altissime, più alte che in altri paesi, e una concorrenza oggettivamente spietata. Quindi fare ristorazione è niente di più che fare impresa, come nella meccanica, nella moda, in altri settori. Quindi ci scontriamo con delle realtà molto crude e molto competitive, diciamo. E questo è il punto di domanda vero sulla sostenibilità vera del business, del settore. Eh sì, la grande scommessa è: reggerà, quanto reggerà, quanti posti di lavoro ci può dare, quanto, no? Questo è un po' il tema del futuro per quel che ci riguarda. Certo, pensiamo poi per esempio a città come Milano e Roma. Ormai del tutto autonomamente si vengono a creare quelli che si chiamano food districts, delle piccole zone dove la concentrazione di ristoranti rispetto ad altre strutture commerciali è praticamente del 90%, ed è chiaro che non è sostenibile tutto questo. Non è possibile che in così poche aree vengano concentrati esercizi commerciali legati alla ristorazione, e il mercato però è sempre della stessa dimensione, mangiamo comunque 2-3 volte al giorno. Anzi, forse mangiamo meno, no? Come dicevi prima, adesso c'è così tanta attenzione che le persone non vanno certo a fare le grandi abbuffate, ecco, mangiano il giusto oltretutto. Certo, si preme sulla qualità e non più sulla quantità. Qualità vuol dire anche informazione, conoscenza, tracciabilità, salute e quant'altro. Quindi tu come la vedi? Sicuramente un grande, diciamo, consolidamento come in tutti gli altri settori. Vuol dire che resteranno vivi quelli che riescono, uno, ad aggregarsi e a resistere agli effetti della crisi e della competizione. Quindi lentamente il numero di esercizi di ristorazione andrà ad abbassarsi e anche a consolidarsi, quindi a far resistere quelli che sono più forti, più capaci e hanno un rapporto ovviamente tra qualità, prezzo e quant'altro superiore rispetto agli altri. E magari anche con una serie di accorgimenti che non dipendono a quel punto dal ristoratore, ma si tratta anche di attenzioni da parte fiscali, piuttosto che anche attenzioni sul territorio, quindi l'attenzione che io posso mettere nel mantenere, prevenire dei dissesti, i disastri idrogeologici che abbiamo visto, no? Così fa sì che poi dopo ci siano anche le risorse agroalimentari per avere un tessuto di qualità. Quindi c'è tutta una serie di interdipendenze, diciamo. Certamente, tra l'altro interdipendenze che magari per qualche piccola disfunzione, qualche piccolo disastro scopriamo essere negative, però possono anche rappresentare una grande opportunità perché per esempio l'agroalimentare e la ristorazione in particolare, parlo di agriturismo in questo senso, si intersecano in modo fantastico con l'aspetto turistico, che è un altro punto forte del nostro paese. Quindi è anche questo un possibile motore, diciamo, per l'occupazione italiana, sempre che venga fatto girare all'unisono. Certamente, sembra fatto con un occhio di riguardo per gli altri operatori degli altri settori con cui si può andare felicemente a braccetto. Però tu sull'aspetto ristorazione, qui chiudiamo, lo vedi un po' un boom che prima o poi sarà, diciamo, esaurito, una bolla? Sì, che subirà un diretto rallentamento, ecco, diciamo. Sì, un rallentamento e anche appunto che andrà verso un consolidamento più che mai necessario perché, ripeto, decine di migliaia di esercizi di ristorazione sono troppi per un paese che oggettivamente è in crisi e non riesce più a permettersi il ristorante come punto di svago e come, diciamo, canale di spesa. Però non voglio fare mi viene in mente le osservazioni di molti politici, no, i ristoranti però insomma sono sempre pieni, la crisi c'è ma non c'è. In realtà forse è una questione di scelte, le persone forse hanno tagliato su qualcos'altro ma non sul ristorante, come non hanno tagliato sui telefonini per anni. È verissimo, al ristorante non ci si fa mai da soli e per questo che è un punto fondamentale per la comunità e soprattutto italiana. Quindi non si va solo per mangiare, non è più solo un discorso di comunicazione, ma è un fantastico motore di socialità per gli italiani e quindi si tende a metterlo comunque tra i primi posti per i motivi di svago e di, diciamo, occasioni di comunità. Questo è molto importante. Ognuno taglia dove si sente di poter tagliare, no? Insomma, quindi magari qualcun altro ha tagliato sul ristorante in un altro paese e gli italiani hanno preferito mantenere l'aspetto della socialità piuttosto certo. Che altri. Grazie ad Antonio Belloni, autore, ricordo, di Food Economy, edizioni Marsilio, per essere stato con noi. Ci risentiamo nell'anno dell'Expo. Grazie. grazie a voi. L'altro pianeta. Un buon pomeriggio, ancora buon anno. Questa è la seconda parte dell'Altro Pianeta. In questa puntata abbiamo cominciato con il parlare di un libro dal titolo Food Economy di Antonio Belloni. Continuiamo a parlare di food e di economy, ma declinati in un altro ambito. Parliamo infatti dell'osservatorio Metronomo, creato da Metro Italia in collaborazione con Jefe Bocconi. Cos'è Metro? Beh, molti la conosceranno, è una catena di, diciamo così, grandi supermercati all'ingrosso, ha 49 punti vendita sul territorio italiano, serve 1.200.000 clienti professionali, anche di più, molti dei quali nel campo della ristorazione. Jefe Bocconi invece è l'Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente della Università Bocconi di Milano. Il prodotto di questa collaborazione collaborazione, il frutto di questa collaborazione è l'Osservatorio Metronomo, che in mesi di lavoro ha scattato una fotografia del rapporto tra le aziende dell'Horeca, che è un acronimo tra hotellerie, restaurant e caffè, quindi stiamo parlando appunto di ristorazione, catering, settore alberghiero. Dicevamo, quindi ha scattato una fotografia del rapporto delle aziende che lavorano nell'Horeca e la sostenibilità ad ampio spettro. Dallo status quo sono nate poi delle linee guida applicabili dalle piccole e medie imprese del settore. Ma ci dice di più, o meglio ci spiega i risultati di questa ricerca, Bruno Bianchini, che è marketing manager di Metro Italia. L'idea di Metronomo nasce dall'incrocio di alcune priorità strategiche di Metro Cash & Carry in Italia. La prima è la centralità del cliente Horeca, quindi professionisti del mondo della ristorazione e bar, che sono appunto al centro e alla massima attenzione della nostra azienda. Nei confronti dell'Horeca, Metro infatti ha deciso di rilanciare la relazione andando oltre, andando quindi a condividere le sfide quotidiane dei nostri clienti e impegnandoci al loro fianco per supportarli. Quindi Bianchini, avevate colto questo interesse da parte del cliente, ecco, non è stata semplicemente una vostra proposta? Assolutamente, e questo verrà visto anche nei risultati proprio del nostro osservatorio, come appunto il tema sia rilevante e strategico per loro. L'altro pilastro della nostra strategia in Italia è il tema della sostenibilità ambientale e la lotta agli sprechi alimentari, valori sui quali Metro Italia ha scelto di fondare la propria responsabilità sociale. Quindi diciamo che l'osservatorio nasce proprio dall'incrocio, se vogliamo, di queste due priorità, dando il via ad una collaborazione con l'Università Bocconi per avviare Metronomo, il primo osservatorio svolto in Italia a beneficio del settore dell'Horeca, che nei confronti del quale ad oggi non esisteva alcun tipo di rilevazione. L'osservatorio l'avete lanciato quando? È stato lanciato a maggio del 2014. C'è stato fatto, da un punto di vista anche di approccio, abbiamo coinvolto più di 300 piccole e microimprese. Che cosa avete chiesto allora? Allora, sostanzialmente l'obiettivo era anche capire quanto la ristorazione fosse pronta in qualche maniera all'appuntamento di Expo 2015. L'osservatorio si è posto due obiettivi: uno, fare proprio una fotografia su quello che è il rapporto oggi tra il mondo della ristorazione e i temi di sostenibilità, proprio perché anche confrontandoci con Bocconi non esisteva ad oggi una situazione chiara su questo fronte. Dall'altro, ad andare a identificare una serie di linee guida molto pratiche, molto operative, che possono essere condivise col mondo della ristorazione per diventare, come dire, delle pillole gestionali per migliorare appunto il valore dei servizi offerti oggi dalla ristorazione nei confronti dei clienti. I dati sono stati molto interessanti. Come le dicevo prima, il più interessante di tutto direi che è l'importanza di questo tema nei confronti della ristorazione. Il 78% infatti dei partecipanti ci ha detto che la sostenibilità è un elemento strategico per loro, quindi è al centro dell'attenzione del loro modo di fare impresa. Anche la crisi in qualche maniera ha aiutato questo aspetto, perché i temi di sostenibilità sono visti per il 68% delle aziende come un elemento, un'opportunità per sviluppare interventi utili a ridurre i consumi e a ottimizzare le risorse. Scusi, lei diceva prima che è un elemento strategico nei confronti del cliente, quindi non è soltanto strategico per il proprietario del locale perché magari risparmia, perché ha dei benefici in qualche modo diretti dalla sua attività di sostenibilità, ma è anche strategico nei confronti del cliente, ho capito bene? Assolutamente, viene vista proprio come una tematica di medio termine per le aziende, proprio per rafforzare la relazione con i clienti e migliorare la soddisfazione del servizio. Le dico giusto quali sono le azioni che concretamente ci hanno detto essere quelle più promosse, più portate avanti. Allora, prima di tutto c'è il tema della raccolta differenziata, abbracciata per l'88% dei rispondenti. C'è poi il tema del tentativo di ridurre tutti gli sprechi alimentari lungo la filiera, per il 70% dei rispondenti. E poi l'attenzione nei confronti dei prodotti a chilometro zero, 62% delle risposte. Ci sono sicuramente dei margini di miglioramento sull'adozione di prodotti biologici, sposati oggi solo dal 48% degli intervistati. Altro dato interessante è come queste azioni di fatto siano state portate avanti in maniera concreta, ma completamente in piena autonomia, senza, come dire, l'utilizzo di una guida o di una terza parte che li abbia aiutati in un percorso appunto di sostenibilità. Quello che emerge infatti come in maniera molto bassa è ad esempio l'utilizzo di certificazioni ambientali o sui temi di sostenibilità, così come anche l'utilizzo di sistemi di rilevazione dei controlli di utilizzo dell'energia e dei consumi. Quello che poi ovviamente abbiamo chiesto ai partecipanti è stato: ma qual è stato il ritorno di queste iniziative? Cosa hanno detto i vostri clienti? E anche qui le dichiarazioni sono interessanti. In generale il 71% dei rispondenti dice che le iniziative ambientali hanno contribuito a una maggior soddisfazione dei clienti, mentre il 64% ritiene che abbiano migliorato l'immagine aziendale del ristorante, del punto di vendita. Ma mi sembrano dati molto importanti. Sì, anche se, soprattutto se lo mettiamo poi in correlazione con un ulteriore elemento, che è invece il gap da un punto di vista di comunicazione. Solo il 40% ci ha detto di comunicare in maniera strutturata queste iniziative, le iniziative di sostenibilità che fa. Quindi sicuramente, e qui rientriamo se vogliamo nel tema delle linee guida e del nostro decalogo, il tema di migliorare la comunicazione di queste attività nei confronti del cliente è chiave. E tra l'altro questo ci riporta un po' a quella premessa che lei faceva prima, cioè che sono tutte azioni portate avanti in autonomia, quindi probabilmente il ristoratore che fa tutto da solo, parte da solo, va avanti da solo, alla fine si scorda di comunicare ai clienti quello che ha fatto, è preso dalle sue cose e non fa l'ultimo passo, che però è quello importantissimo, cioè far conoscere all'esterno anche gli sforzi che si sono fatti, no? Esatto, il tema della comunicazione è fondamentale e qui proprio ci vorremmo inserire noi con il decalogo metronomo, suggerendo appunto una serie di comportamenti virtuosi da mettere in pratica in maniera molto semplice, perché sostenibilità non vuol dire investire tanto. Ma soprattutto poi di utilizzarli anche in una chiave commerciale di marketing per poi comunicare qual è lo sforzo che i nostri clienti stanno facendo nei confronti dell'ambiente come tema appunto per incrementare il valore dei servizi che loro offrono alla clientela. Senta Bianchini, le leggo alcuni capitoli di questo decalogo. Cosa proporre in tavola, come apparecchiare la tavola responsabilmente, vabbè, via via. Come immaginate però che venga tradotto in pratica questo decalogo che voi offrite alle aziende? Allora, noi abbiamo un mensile, un magazine dedicato al mondo dell'oreca, che sarà uno strumento che ha appunto una finalità sostanzialmente di offrire spunti e ispirazione alla nostra clientela. L'idea è proprio quella sostanzialmente di far vivere questi contenuti del decalogo attraverso appunto una comunicazione mensile, dove andremo ad affrontare in maniera molto più dettagliata ciascuno di questi punti, dando appunto spunti e suggerimenti e dando anche voce alla testimonianza del qualche cliente, quindi sostanzialmente condividendo già delle pratiche virtuose che oggi sono messe in pratica dai clienti. Senta, servirà questa ricerca a far nascere qualcosa di diverso all'interno di Metro? Cioè c'è qualcosa che pensate di tradurre in Metro grazie ai risultati dell'osservatorio metronomo? Allora, come le dicevo, sicuramente il tema della sostenibilità è uno dei pilastri Metro, quindi abbiamo già tante iniziative che stiamo portando avanti su questo fronte, nei confronti appunto dell'ambiente e della lotta degli sprechi alimentari, quindi è assolutamente un dialogo aperto e in crescita, in forte sviluppo. Quindi con i clienti nascerà un nuovo rapporto, possiamo dire. E abbiamo anche proprio già pianificato anche con Bocconi di organizzare un workshop con alcuni clienti e appunto col supporto di Bocconi, proprio per andare a declinare in maniera molto, molto chiara e operativa i punti previsti dal nostro decalogo metronomo. Quest'anno concluso il periodo di osservazione, avete anche premiato le imprese del settore più sostenibili, quindi bar e ristoranti che si sono dimostrati particolarmente attenti a questo aspetto. Ripeterete anche questa parte in futuro? Si potrà concorrere ancora? Assolutamente, il progetto c'è anche per il 2015, ci piacerebbe spingerci anche un po' più in là, nel senso che quest'anno abbiamo chiesto ai nostri clienti di raccontarci le loro storie di impegno. Magari l'anno prossimo potremmo partecipare invece in qualche progetto di sostenibilità con loro. Grazie Bruno Bianchini, marketing manager di Metro Italia. Buon anno anche a lei. È tutto, ricordo buon anno ovviamente anche agli ascoltatori. È tutto, appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. L'altro pianeta @radio24.it per scriverci. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.